Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto un iPod, una Vespa, una videocamera e un avvitatore. E poi una racchetta da tennis, delle catene da neve, una celata da barca, un quadro e una bottiglia. Ma è ancora poco. Perché io voglio vendere tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo il dizionario di latino Castiglione e Mariotti. Sono le 16:08. Qual è? Castiglioni? Castiglioni e Mariotti, avete ragione. Di là dal vetro mi hanno guardato come se fossi un imbecille. È che effettivamente... Perché Castiglioni e Mariotti, Laura? E mi viene da dire Castiglione e Mariotti. Però con tutto il rispetto per il signor Castiglione. 16:08, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi vendo veramente un pezzo della mia gioventù. Sono queste 2000 e passa pagine di vocabolario che tutti quelli che hanno studiato al liceo classico o al liceo scientifico conoscono, che è il dizionario di latino e italiano Castiglioni e Mariotti. Che dire che il latino è importante, no? È tautologico, cioè è come dire che l'Inter è la squadra più forte del campionato, cioè è una cosa che si sa, oppure, anzi meglio, è come dire che l'Inter è la squadra più forte del campionato ma che non vincerà mai niente in Europa, si sa ancora di più. Però c'è qualcosa che mi sfugge, nel senso che è vero che il latino è importante e io me ne rendo conto adesso, però mi sfugge il perché. Cioè vorrei proprio capire per quale motivo è importante, vorrei che qualcuno me lo dicesse concretamente. E quindi oggi vorrei chiedere un piacere a tutte le persone che sono titolate a farlo. Cioè mi piacerebbe avere, il massimo sarebbe proprio un latinista, cioè uno che studia il latino, oppure un professore, semplicemente. Magari anche, guarda, pure un liceale che ha il suo bel... dal 7,5 in su, il 7 no, dal 7,5 in su, che mi chiamassero e mi spiegassero perché il latino è importante. 800240024, perché le ragioni io so che ci sono, però ancora mi sfuggono. Oppure mi mandate un messaggio al 349-238-6666, ma sapete che preferisco sempre a voce. 800240024. Sono arrivati dei messaggi su Facebook dopo che ho caricato la foto del Castiglioni e Mariotti. Non ne esco, ragazzi, non ne esco. Fino alla fine sarà Castiglione e Mariotti. Marco che scrive: il mio il... cioè italiano-latino, per chi non lo conoscesse, le 106.000 lire peggio spese della mia vita. Silvia invece scrive: ho riempito il mio dizionario di latino di fogliettini, appunti rigorosamente celati tra le pagine sottili come carta velina. È stato inutile, ho preso latino a settembre per 3 anni su 5. Com'è bello ripensare ai tempi andati, quando sono andati, perché è vero che alla fine il latino ti fa penare, però c'è un motivo per cui alla fine ti piace. 800240024, solo persone, mi raccomando, titolate a farlo, da latinista in su, dai professori in su, facciamo così. La storia del mio Castiglioni e Mariotti invece comincia adesso. Il dizionario il vocabolario della lingua latina, il latino italiano, italiano latino, autori Castiglioni Mariotti, editore Löscher. 47.000 voci latine, 30.000 voci italiane, 2.500 pagine. Latino classico e cristiano, letterario ed epigrafico, nella loro essenza e vitalità lessicale e nelle peculiarità della loro fraseologia. Perfetto per chi ha nostalgia delle lingue morte o si appresta ad odiarle. Valore commerciale 40 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. A chi può servire il vocabolario di latino che vendo oggi? Forse a qualche studente di liceo, o a qualche malinconico nostalgico del bel tempo che fu, quando si studiava davvero. Beh, di certo non interesserà a chi conduce una vita normale, una normale vita adulta. Ecco, a lui semmai può bastare un collegamento a internet e il collegamento è alle citazioni di Cicerone e Virgilio, che fanno sempre molto figo quando c'è bisogno di sfoggiare una cultura che in realtà non si ha. Tipo, per aspera ad astra, ad maiora, alea iacta est. Bello, no? È bello parlare in latino, soprattutto quando non si capisce cosa si dice. Altre citazioni le abbiamo sentite tutti, ma io so cosa significano e lo so perché ho fatto il classico. Giulia invece era una scienziata, io un umanista. Forse per questo la sera prima che lei mi mollasse mi ha mostrato un grafico preciso delle volte in cui ho rifiutato di andare all'IKEA con lei. Per lei il dizionario di latino è sempre stato un mistero, perché oltre al significato delle parole ci sono sempre anche dei pezzi di versione. E per lei era come se sulla calcolatrice ci fosse anche la soluzione dei problemi. Lei era laureata in matematica e questo le aveva chiuso la mente in un mondo di numeri e formule precise. Aveva insegnato a scuola, però ultimamente lavorava per una casa editrice scolastica. Di mestiere controllava che fossero giusti i risultati degli esercizi di matematica sui libri del liceo scientifico. Cioè, mi spiego. Qualcuno scriveva degli esercizi per insegnare l'analisi matematica e lei doveva controllare che le procedure di soluzione fossero corrette fino in fondo. Non è durata molto, ovviamente. Una volta trovato un errore, è andata dalla sua responsabile, che a sua volta ha avvisato l'autore, solo che l'autore era permaloso ed era pure un professore universitario e l'editore, e quindi è stata licenziata. Lei correggeva soprattutto i libri che si usano durante le vacanze estive e io a vederla lì così concentrata mi arrabbiavo ogni volta, perché secondo me i libri delle vacanze estive non dovrebbero esistere, perché le vacanze estive, lo dice la parola stessa, no? Vacanza, dal latino appunto vacuo, vuoto. La vacanza deve essere la mancanza di cose da fare, invece lei no, giù a scrivere esercizi per gli studenti. Cioè, devo citare Epicuro o bastano le parole elogio dell'ozio per fare venire in mente un'amaca, una spiaggia e un palmeto? Io odiavo il latino. Sono sempre stato una specie di rocchettaro anglofilo, però pur di darle contro mi trasformavo in un topo da biblioteca amante della cultura micenea. Insomma, tutta questa storia alla fine mi ha insegnato qualcosa, e cioè che il latino, in fondo, serve. Un giorno apriremo una porta d'entrata, tu bianca e patata sarai la mia luce, io nuovo marito, compagno d'altare. Quel giorno speciale, Daniela velluto di cuore e di mani, finiti gli esami fu preda del luglio, e quando in settembre partimmo da Roma, col sole e la luna per noi, sognavi di avere quel sorriso in tasca che ho visto su vela in burrasca. Perché siamo insieme, che cosa ci lega, chi ci pensa ne avviene, annega. Non credevo che mentre bazzicavo le aule del liceo l'avrei mai pensato. No, proprio non mi passava per l'anticamera del cervello mentre camminavo per i corridoi pieni di busti di scrittori greci e latini che un giorno l'avrei detto. Mi duole un po' e ancora non capisco perché, ma devo confessarlo. Studiare il latino mi ha aperto la mente. Oh, là! L'ho detto. Studiare il latino, ragazzi, è utile. Cioè, però, perché? Voglio dire, in fondo nessuno lo parla, no? Nessuno lo parla più se non qualche volta in certe messe private che di solito non si frequentano. Cioè, che me ne faccio del latino se devo giusto dire pane al pane e vino al vino? Eppure non lo posso negare. Lo studio del latino ti obbliga a capire le cose. E le cose che capisci spiegano altre cose. Devi usare la memoria, devi applicare degli schemi. Ma soprattutto devi fare sempre tanta attenzione alle eccezioni. Cioè, il trucco sta lì. Non esiste una regola sola. Cioè, non esiste una regola unica, indivisibile. Ne esistono tante, diverse, tutte interpretabili. E tu devi trovare la tua via giusta. Cioè, ogni brano può essere tradotto in vari modi. E se devi fare una versione, quella che verrà fuori è la tua versione. Guarda caso, anche qui le parole alla fine contano. Cioè, questa è la mia versione dei fatti e ne possono esistere diverse, ovviamente. Certo, le norme ci sono molte, ma sono le eccezioni che contano. E sono la cosa più importante. Le eccezioni sono il sale della vita. E questo l'ho imparato traducendo Cesare. Su questo dizionario ci ho infilato centinaia di versioni che mi scrivevo a casa, perché poi nel compito in classe forse le avrei potute copiare. Però poi, quando era il momento di farlo, non lo guardavo mai. Insomma, già è abbastanza noioso stare a scuola per tutte quelle ore, per tutta quella quantità di vita, che se poi non raccogli nemmeno le sfide che ti porta una versione di latino, allora che senso ha? Gallia est omnis divisa in parte stress, quarum una incolunt belge, aliam aquitani, tertiam qui ipsorum lingua celte, nostra Gallia pellantur. Non male, eh? Eppure non c'è niente da fare. Nonostante tutto quanto di bene il latino mi abbia regalato, io questo dizionario lo vendo al miglior offerente. Perché pesa molto di più di quanto io possa sopportare. Più di tutte le mie cose. Perché ha in sé millenni di storia del mondo. è una tonnellata di storia mia, proprio quella di cui ho deciso che mi voglio liberare al più presto, ma non gratis. Ecco perché, nonostante tutto, nonostante le citazioni latine e l'apertura mentale, questo dizionario è in vendita. Il suo valore sul mercato sono 40 euro. La base d'asta, qui, sono 99 centesimi. Se volete spiegarmi per quale motivo il latino è importante ancora oggi, il numero è quello: 800 024 0024. Le 16:19, questa era di 24, e mi scrivono: il latino serve per ragionare, Marco, il latino serve perché ti insegna a ragionare con la logica, ancora. Poi c'è un medico che dice: sono un medico e devo dire che a volte il latino mi ha permesso di decifrare il misterioso linguaggio medico, a volte mi pento di non aver fatto addirittura anche il greco. E poi il mio preferito è: ciao Matteo, non ti offendere, ma questo vocabolario io lo uso in ufficio come fermacarte, uguale, uguale. 349-238-6666 oppure 800-24-0024. Andiamo subito da Mario a Prato, pronto? Sì, pronto Matteo, buonasera. Buonasera Mario, come va? Bene, abbastanza bene. Tu che cosa fai di mestiere, Mario? Io insegno letterature francofone all'Università di Modena. Perfetto, quindi sei la migliore persona che mi potesse capitare oggi. Non esageriamo. Non esageriamo, diciamo tra le migliori, Mario. Ecco, abbassa un po' il tiro, cala un po' l'angolo. Ecco, senti, bene. Perché è importante studiare il latino? Perché il latino, come il greco, è una lingua flessiva che abitua il cervello dell'adolescente, ma anche dell'adulto, a un ragionamento articolato, mentre l'inglese è una lingua fissiva che abitua il cervello a un ragionamento ripetitivo e mimetico. Scusami, guarda, Mario, già ti amo per questa definizione che credo manderemo in loop per una puntata intera. Però mi ripeti solo la differenza tra flessiva e fissiva? Sì, la lingua si dice flessiva quando le parti del discorso cambiano a seconda del significato. Ok. Quindi in latino io dico ego sum, tu es, ille est. Okay. Ok. La lingua si dice fissiva quando le parti del discorso non cambiano a seconda del significato. Fantastico. Quindi in inglese io dico I love, you love, he loves, però è una minima variazione. Senti, Mario, quanti anni hai tu? 48. E sei sposato con una donna che è felicissima di avere un uomo che sa la differenza tra una lingua flessiva e fissiva, immagino. No, non sono sposato, ma chi mi ama è felicissimo di conoscere un uomo che distingue una lingua flessiva da una fissiva. Mario, messaggio arrivato in maniera flessiva, guarda, ti ringrazio moltissimo. Ciao e buona giornata. Ciao. Grazie ancora. Andiamo a Roma da Luca, pronto? Salve, buonasera. Buonasera Luca, adesso ti voglio però, dopo Mario. Io volerò molto più basso. Va benissimo, dimmi. Il mio IEL è ancora a casa e ne ho 43 di anni, quindi pensa quanto ci sono affezionato e non lo uso come poggia carte. Ok, e nemmeno come fermaporta. E si chiama, ricordiamolo, Castiglioni e Mariotti. Ok. Però hai amato il latino oppure ti è servito? Guarda, io l'ho odiato perché ho iniziato con una raffica di 3 al liceo scientifico che frequentavo. Mm-hmm. E non si capiva il perché. E poi si è capito, perché io non conoscevo l'analisi logica. Ovvero, avevi saltato un passaggio. Bravo, soggetto, verbo, complemento. Certo. Costringermi ad impararla e quindi ad avere poi 9 al latino, mi ha insegnato a scrivere in italiano. Tu hai figli? No. Ok, ma hai in mente di farli? Hai in mente di tramandargli il tuo IL oppure te lo tieni per te? Assolutamente sì, ho in mente di farli. Ma scusami, tu lo guardi ancora ogni tanto, lo sfogli? Ogni tanto lo sfoglio, assolutamente sì. Bene, Luca, ti ringrazio molto. Guarda, non sei stato come Mario da Prato, ma è andata bene uguale. Grazie mille. Ciao. Grazie Luca. Andiamo a Rimini da Chiara, pronto? Ciao, non me l'aspettavo neanche di essere richiamata. Hai visto? Invece del tante volte uno dice... È la famosa prima volta della mia vita, a 38 anni. E allora facciamo un bel applauso a Chiara. Grazie, guarda, grazie, ce grazie, grazie. Ma andiamo al dunque, Chiara. Ma andiamo al dunque. Io insegno latino e anche greco, ma oggi mi sembra già che basti il latino. Brava, fermiamoci a quello. Di oggi. A che scuola? Al liceo? Al liceo classico della mia città. Ok. E quindi non posso che intervenire ovviamente pro e non contro. E voglio dire una cosa: non buttatelo via il vocabolario, via. Male che vada vendetelo, ma non buttatelo via. Male che vada vendetelo, cedetelo, ma è veramente un bene perpetuo. Tu pensa che il motto della nostra scuola è possesso per sempre, che la parola con cui tu cidide definisce le storie. Scusami, me lo ripeti perché stai andando come un treno, Chiara. Possesso. Perché io sono abituata, scusa. Certo, per far entrare in testa qualche nozione a quelle capre dei tuoi studenti. No, diciamolo, Chiara, diciamolo. No, possesso per sempre. Possesso è la parola con cui Tucidide definisce l'opera dello storico. E noi dobbiamo, secondo me, pensare come possesso per sempre al latino, ma non appunto come un fine, un mezzo per arrivare a capire come è strutturato il pensiero, come si struttura il linguaggio. E guarda, è un'apertura mentale che non deve fare dei latinisti, poi per chi lo vuole un professionismo, ma per altri un modo per ragionare. Io lo dico sempre ai miei ragazzi: bruciate quelle sinapsi, collegate il cervello e facciamolo con il latino. Ah, è così. Va bene, Chiara, ti ringrazio molto. Spero che nel messaggio che mandi ai tuoi allievi non rimanga bruciate quelle sinapsi, ma studiate il latino. Ovviamente è un modo sano per fare. Sono d'accordo. Chiara, ti ringrazio molto. Grazie a voi. Ciao e buona giornata. Ciao. Andiamo a Libero dalla provincia di Latina. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, Libero. L'uso del latino in modo pratico io l'ho potuto constatare nel 2006, stavo a Budapest ed era il 25esimo anno del nostro matrimonio con mia moglie. Abbiamo cercato di avere una benedizione dall'arcivescovo, che non parlava né inglese, né francese, né tedesco, né italiano. E così gli ho detto il latino, di parlare il latino, e gli ho spiegato il latino, e quindi è avvenuta tutta la cerimonia. E vi siete capiti? Sì. Ma quindi serve veramente? Sì, ma ci siamo capiti, anche perché essendo l'arcivescovo, quindi normalmente era abituato a parlare latino. Ma tu ti ricordi qualcosa ti ricordi qualcosa delle cose che vi siete detti in latino? Sì, gli ho detto: Pater, odie vigesimo quinto nuptialis nostris jubileum est. Che tradotto in italiano? Speciale act benedizione, e così via. Poi, ma ci dici in italiano al volo che cosa voleva dire, altrimenti siamo rimasti al semaforo, Libero? Sì, significa: padre, oggi è il 25esimo anniversario delle nostre nozze, quindi ti invochiamo una particolare benedizione, una particolare cerimonia. Libero, grazie mille, è stato un piacere, ti abbraccio, a presto. Grazie. Ciao, grazie. Oggi ragazzi abbiamo volato altissimo, e giusto per andare contro al motto della nostra professoressa di Rimini, che diceva possesso per sempre, io vi faccio sentire delle cose che mi sono liberato in questi giorni. Sono partito con un bel ferro da stiro. E via il ferro da stiro. E poi, alè, la videocamera. Poi ho preso l'iPod, l'ho buttato via. Cioè, l'ho venduto, ovviamente. Il computer. Il quadro della ragazza al telefono. Ho venduto la bottiglia di idroletina. Ho venduto la radio sveglia. Ho venduto la Vespa. E olè, sono ancora più leggero. Questo pezzo è tratto da Up, che l'ho fatto già sentire. Ammazza, guarda, ho tirato giù qualcos'altro, evidentemente. È tratto da Up, se non l'avete ancora visto, andate a vederlo. L'ultimo SMS arriva da Cecilia, ex liceo classico. Il latino serve a risolvere tutta la settimana enigmistica. Grazie a lei, grazie però anche a Laura Faggin, a Tiziano Bonini, ad Alessandro Genovesi, a Stefano D'Andrea e soprattutto a Pietro Lacorte, detto anche Pietro il Castiglione Mariotti Lacorte. Se volete rinfrescarvi la memoria con il latino o lo state studiando, prendetevi il mio dizionario, lo trovate su www.radio24.it. Lunedì tenetevi forte, perché tentiamo un esperimento nuovo. Visto che su eBay non posso vendere biglietti per serate o eventi, quelli ovviamente che avevo già comprato, allora lo faccio in diretta. Quindi lunedì venderò il mio abbonamento a teatro. È un abbonamento per due persone, è al Teatro dell'Elfo di Milano, e lo vendo a chi in diretta mi darà la motivazione migliore per cui lo vuole. Io intanto mi godo il mio weekend più leggero di quello passato, e se vi capita, liberatevi delle vostre cose, che alla fine sono sempre e solo delle cose. Love, love, love.